Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti quanti. Si riprende grazie. Quindi dopo un periodo un po' così di limitazioni che ben conosciamo, in che modo saranno le linee di questa ripresa? Beh, intanto noi in realtà non abbiamo mai smesso, perché al di là del fatto che il teatro sia stato chiuso, abbiamo inventato moltissimo e abbiamo mantenuto per tutta la stagione scorsa una relazione molto forte col pubblico attraverso incontri, approfondimenti, laboratori. Quindi per noi la chiusura dell'anno scorso in qualche modo ci è servita a creare un processo che ci fa ripartire oggi. Quindi ripartiamo da quello che è successo questo anno e mezzo e ripartiamo con l'idea di riaprire uno spazio, cioè abbiamo messo lo spazio al centro. Lo spazio è tutto quello che può succedere dentro lo spazio, gli scambi, no? Non a caso si chiama la città e gli scambi quella stagione di quest'anno, perché di fatto non ci è mancato il teatro in questo anno e mezzo di chiusura, perché il teatro comunque ha continuato a lavorare, a incontrarsi, a studiare, a riflettere su se stesso e a riflettere quello che stava succedendo. Sono mancati gli spazi in cui incontrarsi e quindi noi ripartiamo da lì, con una stagione che guarda appieno a tutte quelle che possono essere le relazioni possibili con i diversi pubblici all'interno di uno spazio come un teatro comunale alla periferia di Bologna, con la messa al centro di tutti i linguaggi, una stagione multidisciplinare, quindi musica, danza e prosa, con uno sguardo al territorio, con le compagnie di eccellenza del territorio, come il Teatro delle Ariette e il Teatrino Giullare, che quest'anno compie 30 anni di vita artistica, e con delle chicche che siamo felici di portare, come Zulu del 99 Posse, che si rimette in scena non solo come cantante ma anche come attore, raccontando la sua storia e il suo percorso di vita e politico dentro la musica ma anche dentro la politica. E poi un'altra compagnia che mi piace ricordare è Corps Citoyen, che è una compagnia italo-tunisina che adesso si è formata a Tunisi ma adesso abita a Milano, che ha fatto un lavoro straordinario presentato a Sant'Arcangelo dei Teatri nell'estate scorsa sugli stereotipi che abbiamo verso gli stranieri del Nord Africa, ma non solo, ed è un lavoro di grande impatto multimediale, comico, ma anche forte e anche drammatico alla fine. Quando e come si comincia? Noi cominciamo intanto con EBAL, che è questo progetto di Ater Fondazione in cui noi facciamo parte. Naturalmente siamo un teatro di Ater e quindi diciamo che siamo in prima linea nei progetti regionali di Ater, con una prova aperta del collettivo Cinetico il 14 ottobre, che mostra al pubblico bolognese lo spettacolo Manifesto Cannibale, che poi debutterà a Roma Europa Festival qualche settimana dopo. Il collettivo Cinetico sarà in residenza da noi da lunedì prossimo fino al 17 ottobre. Poi invece il primo spettacolo di stagione è Fedeli d'amore del Teatro delle Albe di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, con Ermanna Montanari in scena, intorno al quale è stato costruito anche un progetto su Dante. Ahimè, su Dante ne abbiamo viste tante, ne abbiamo sentite tante, quindi sarà anche, come dire, non siamo più originali, ma c'è da dire che questo era un progetto che avevamo pensato l'anno scorso, nella stagione 2020, e quindi l'abbiamo solo rimandata. Siamo stati sfortunati a arrivare in coda. Però è un progetto molto interessante perché mette in rete quattro teatri di Ater, quindi Cattolica, Casalecchio, Scandiano e Fidenza. Porta lo stesso spettacolo nei quattro teatri, ma costruisce un percorso intorno alla visione di Dante di Marco Martinelli con i ragazzi delle scuole superiori. Quindi i ragazzi leggeranno un libro su Dante, vedranno un film e poi arriveranno allo spettacolo e dopo incontreranno Marco Martinelli. Quindi insomma ci sarà il vero affondo nel Dante di Marco Martinelli. Ha parlato di spazi, quindi sì. Altri palcoscenici anche, dico un po' inconsueti o atipici all'interno di questo cartellone? Beh, noi già nell'ultima stagione che avevamo fatto, 19-20, ci eravamo esercitati con degli spettacoli fatti sul palcoscenico, con il pubblico sul palcoscenico, quindi avevamo costruito come una seconda sala e una serie di spettacoli che avevano questa dimensione piccola, che naturalmente quest'anno non si può fare ancora per motivi di distanziamento e di sicurezza anti-Covid. Però usciamo fuori, l'ultimo spettacolo della stagione lo facciamo a Casa delle Acque, che è uno spazio molto bello sul fiume, sul fiume Reno, vicino al Lido. E tra l'altro chiudiamo con questo spettacolo Piccoli Funerali, che è una specie di carezza consolatoria per per il pubblico, facciamo in primavera e quindi, come dire, abbiamo deciso che quest'anno portiamo il pubblico in uno spazio esterno al teatro, in mezzo al verde, in mezzo alla natura. E speriamo che sempre di più possa essere questo passaggio dal teatro agli spazi esterni. Naturalmente adesso dobbiamo fare i conti con le normative anti-Covid. Certo, grazie della disponibilità e buona stagione. Grazie, grazie a voi, arrivederci. Vi aspettiamo a teatro.